Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps, ready to race to you. These days are happy days. These days are goodbye, oh, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. È terribile. In questo momento mi è arrivato un messaggio di una persona che mi fa notare che il presidente Hollande ha la mia stessa età, del mio stesso anno. Ci sono due giorni che sto facendo pezzi, lasciando interviste, intervenendo in programmi, dicendo: ah, che cosa, un vecchio signore con capelli tinti che va con una ragazza alla mia stessa età. Beh, sai, è un po' difficile quando uno, sentendo la sigla di Happy Days, dice: ma in fondo questo fa parte di un momento in cui ero già adulto. Sì, perché essendo oggi 40 anni di Happy Days, di questa sorta di finta edulcorata visione dei felici anni 50, che in realtà apparve in America negli anni 70, non l'abbiamo vista in Italia addirittura dopo, e improvvisamente leggo oggi un pezzo di Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano che parte dei giovani virgulti che oggi rappresentano le forze più vivaci, più promettenti della politica, tipo Matteo Renzi, sono cresciuti con Happy Days. No, ma io quando c'era Happy Days già ero bello che grande, già guardavo quei poveri ragazzi rincoglioniti come qualcosa che apparteneva in maniera fittizia a una parte della mia vita che avevo realmente vissuto. Perché io ho vissuto gli anni 50, essendo del 54, e consideriamo che gli anni 50 sono durati ancora una decina dopo la mia nascita di anni, quando io facevo le scuole elementari ero in pieni anni 50, le persone adulte attorno a me, i miei zii, si vestivano come si vestiva Fonzi, come si vestiva Ricky Cunningham, come si vestiva la sua famiglia. Mia madre era vestita come la signora Cunningham, che a differenza di mia madre aveva questa sorta di lubrico e oscuro rapporto adulterino con Fonzi, che sta nello stanzino sopra la loro casa, e ogni tanto, quando il buon marito andava nella sua ferramenta, scendeva e appunto aggiustava le parti della signora che non propriamente il buon ferramentaio si preoccupava di manutenzionare. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. L'ho detto subito, così almeno la cosa che ci causò strali anni fa quando parlammo di Happy Days, l'abbiamo detto, sì, la signora Cunningham aveva un rapporto adulterino e lievemente sadomaso con Fonzi. Questo tutti lo sanno, tutti lo negano, ma è così. 800240024, sì, Happy Days, ok, per Happy Days noi intendiamo la serie di telefilm che tanto ci appassionò ai fin di anni 50, ma qual è stato per voi il decennio che veramente ha contato nella vostra vita? Considerate un decennio felice. Io ne ho passati tanti, anni 50, 60, 70, 80, poi finì la attribuzione epica a un decennio, non ci sono più stati fantastici decenni, e dopo gli anni 80 non ci sono più stati, poi stati gli anni 90, gli anni 2000, gli anni 2010, ora siamo già nel secondo decennio degli anni 2000. Pensate quanti decenni ho passato io, 7, 8 forse così, ma di epico non c'è stato mai veramente nulla. Invece per Happy Days televisivamente raccontato, Sansonna, cosa hai da aggiungerci? Ma guarda, il fulcro era senz'altro Fonzi, che l'icona che è rimasta celebre, presa dal cinema della gioventù bruciata di Nicholas Ray, del Selvaggio di Brando, e attribuito al corpo di un catastale quale Henry Winkler, no? Con quel giubbottino stretto, con la testa da divinità dell'Isola di Pasqua, allungata, oblunga, calzata in questi panni appunto da selvaggio, da motociclista, che però si stira le camicie, appunto vive questa passione lubrica con la madre di Ricky, e Ricky guarda lui come mentore, come riferimento di vita. Anche perché è l'unica donna con cui era possibile avere un rapporto completo in tutta quella pletora di ragazzine che ricordo che a me faccia già ridere perché ero già grande, io quando negli anni 70, figurati, già andavo per i 20 anni quasi, capito? Vedevo Ricky che sognava con i suoi amici di poter dare un bacio, l'hai baciata. Dico, ma come questi, in un'epoca come questa, fanno la bava per settimane per baciare una ragazza? Quindi era il moccio amoroso, era il moccio amoroso calato dall'American Graffiti, ci pensi, più banalizzato ulteriormente, insomma, come dico, con quella dimensione poi cantata da geni del nostro tempo come Max Pezzali, il Gozzano del nostro tempo, che penso ne ha fatto una bandiera di questo. Ecco, giochiamo sulla mistificazione. Allora, gli anni felici, i famosi anni 50, di cui noi molte persone, Andrea Scanzi parla di Renzi, probabilmente Renzi pensa che gli anni 50 furono quelli raccontati in questo telefilm, quando in realtà erano tutti posticci, ricostruiti, quindi crescono su una mitologia, su una poetica che in realtà era totalmente tarocca, finta, teatrale, forse questo spiega molte cose. Sentiamo un attimo, poi vi prego, dite la vostra, 800240024, sono stati quelli per voi gli Happy Days, o ci sono altri decenni a cui voi attribuite un maggior senso di felicità e di nostalgia? Non puoi rinunciare a questo ballo, è un po' il tuo ingresso in società. Lo so, ci entrerò il prossimo anno. Beh, comunque se tu non vuoi rinunciare a questo ballo, hai una sola cosa da fare, cioè portarci Arlene. Ma ci siamo lasciati, come faccio a portarcela? Richard, c'è una cosa che alle donne piace veder fare agli uomini. Loro lo chiamano un bel gesto romantico. Gli uomini ingoiare un rospo. Howard! Dracula! Non capisco cosa c'entri, Johnny. Poverino, poi il padre era la figura più patetica in questa famiglia, che non gestiva. Poi hanno fatto delle fini terribili, l'unico che ha avuto fortuna è stato proprio Ricky Cunningham, che è diventato regista. Gli altri, mi sembra che la sorella sia finita a fare la barista in un'isola sperduta del Pacifico. Otto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, senta, io le volevo parlare di Happy Days, che era il nome di una discoteca che io misi così a caso per fantasia, e poi dopo ne vedi uscì fuori il disco. Io la discoteca l'ho aperta nel 73-74 a Grosseto, è andata avanti un 5 anni perché precorriva tempi, aveva superato di gran lunga ogni immagine di bellezza e di fantasia. Era talmente bella che io poi ho avuto occasione di andare a Parigi al Privé di Regina con una signora ricchissima, perché era un personaggio. Dove è andato, scusi, spieghi bene. A vedere il Privé a Parigi di Regina, la proprietaria della Regina, ma non era un locale come il mio era più bello che io abbia mai visto. Io, ma il Privé cos'è? Quei posti dove si scambiano le coppie? No, a Regina dice? Sì, a Regina, no. Adesso oggi Privé sono quei postacci nei castelli romani, dove vanno i ragionieri a farsi trombare la moglie. Ma io guardi, anche a Londra, no, al Forrose o all'Ippodromo, per esempio, discoteche bellissime londinesi di 25-30 anni fa, che io ci ho vissuto 14 anni, non ho mai visto una discoteca come la mia. Pensi che io per quella discoteca ho perso tutto, ho distrutto anche la famiglia, tant'è vero che un figlio bambino è cresciuto un po' lì e poi è finito male e morto a 40 anni. Insomma, per dirlo, io ho 79 anni, sono molto grande. Ora che sono passati 40 anni da allora, e per necessità sono un geometra, vado negli uffici qua e là, o trovo l'architetto, il capotecnico, il direttore o il sindaco del comune, che la prima cosa quando mi vedono mi dice: quella di Pidei, che giornate, che serate, che spettacolo. Lei ha rispolverato un altro mito generazionale, quello della discoteca, che è leggermente successivo agli anni 50, che venivano fittiziamente rappresentati in questa serie di telefilm, perché appartiene più, diciamo, alla seconda metà degli anni 70, termine degli anni 80, quello è il tempo della discoteca. Lei, quindi, per lei gli anni felici sono quelli legati comunque alla discoteca. Perché non ti siedi? Certo. Ho una cosa per te. Cosa? Due biglietti per il concerto di stasera, c'è Beethoven che suona. È splendido. Già. Comunque penso che tu volessi dire che suoneranno Beethoven. Beethoven è morto. Ma sospeso il concerto! Sto scherzando, lo so che Beethoven è morto. Io rileggo i giornali, cosa credi? Grazie. Ho sentito che faranno una fantastica variazione sulla nona. Ah, sì? Io ho una variazione da fare con te. Giuseppe Sanzonna. Questo mi sembra che fosse Pozzi, la voce da cretino imbarazzante che faceva coppia con l'altro cretino invece rossiccio, che era Ralph Malf, però quello di cui volevo, su cui volevo insistere era l'oscuro riferimento alle versioni che c'è in Happy Days con la loggia del leopardo a cui partecipava il padre, il signor Cunningham, Tom Bosley, che in una puntata di Simpson c'è Homer che dice alla moglie: oh, come erano belli i tempi in cui il nostro padre Tom Bosley ci risolveva tutti i problemi. Quest'aria rassicurante era un po' la dimensione appunto di bravi ragazzi in cui il massimo del pericolo è essere come Ponti, vivere, cioè, appunto, stirarsi le camicie sopra al garage. Questo era un po' quella dimensione di iper e morbida rassicurante, insomma, come scrive oggi Scanzi sul Fatto. In realtà è una visione edulcorata quanto fittizia, dice casa Cunningham, che è la summa insuperabile della famiglia del Mulino Bianco, Milwaukee, Wisconsin, gli anni d'oro del sogno americano dal 53 al 63, a cavallo tra echi della guerra di Corea e di Vietnam. Però Vietnam doveva ancora venire, magari, però assolutamente lì non passava nulla, nessuno aveva un problema, l'unico problema era baciare le ragazze per i ragazzi e per il padre comunque gestire questa famiglia un po' allargata e fingere di non vedere quello che era sotto gli occhi di tutti, che Fonzi, che stava nello stanzino, ogni tanto scendeva. E chissà perché su questa cosa poi non è mai stata chiaramente espressa nella critica, nell'esegesi di Happy Days. Sì, però c'è anche un omaggio che Tarantino gli fa nel suo film più celebre, in Pulp Fiction, in cui, quando c'è la rapina finale, Samuel Jackson dice a Tim Roth: devi essere come Fonzi. Com'è Fonzi? È quieto, è cool in americano, quindi c'è è comunque entrato nell'immaginario, anche soprattutto un grande riciclatore e ritrangugiatore di tutto questo passato che non passa mai e che diventa una sentiamo nostalgia. Elena, l'ascoltatrice Elena, finalmente, buongiorno Elena. Buongiorno. Sì, finalmente ha una volontà dissacratore, di abolizione di quella che è il fantastico generazionale, sempre qualcosa di fittizio, i mitici anni 50. Lei come se li ricorda? Ma io non ero neanche nata, però da quello che, diciamo, ho potuto capire, i film che rivediamo adesso, quelli lì, La gatta sul tetto che scotta, i vari film con la Elizabeth, sono tutti invedibili, orribili, inguardabili. Diciamo che c'era il maccartismo, diciamo che c'era la minaccia dell'atomica incombente, il mondo diviso in due blocchi, erano anni veramente cupi. L'unica cosa bella, forse, i vestiti delle donne. Ecco, beh, guardi, poi io un po' l'ho vissuto gli anni 50, non erano anni brutti, erano anni di grande speranza perché c'avevamo questa sorta di falcidiante tedio dei genitori che hanno fatto la guerra e continuavano a riempirci la testa con storie di bombardamenti, di tessere a non aree, di fame, e d'altra parte c'era il boom che ci stava riempendo di fantastici sogni. Esatto. Sì, la paura della bomba atomica c'era, ma era più sui giornali, non era vissuta. Il maccartismo non lo vivevamo perché uscivamo dal fascismo, che tutto sommato era anche peggio, quindi non ci ponevamo il problema. Solo a posteriori ci si rende conto di quanto possa essere stato limitatorio della libertà. Penso che lei forse l'avvertiva poco, essendo ragazzo. Ma ne era manco nata, signora, che ne sa? Scusi, ne ha visto sui film. No, perché, diciamo, io vedo un po' quello che adesso, possono essere le mie preoccupazioni. Ma il senso di un'epoca si respira. I miei figli vivono l'adesso, per loro è tutto bello, è tutto nuovo, è tutto pieno di speranza. Io comunque... E noi invece ci incupiamo dicendo che sono anni di crisi. Vedi com'è diversa la percezione. Noi conosciamo il nostro tempo, sappiamo come potrebbe essere migliore, ci sembra di... Insomma, alle volte cogliamo molto di più i lati paurosi, insomma. Allora, io sono dell'idea che un decennio vada respirato. È difficile abbandonarsi alle riletture che ne fa il cinema, che ne fa la fiction, che ne fa la letteratura. E chi ha respirato gli anni 50 dice che non sono stati delle annatacce, tutto sommato. Molto meglio degli anni 60, poi, che sono gli anni in cui improvvisamente da il grande sogno entrammo nel periodo della terribile speculazione, del saccheggio delle nostre più felici risorse. Fermiamoci un attimo a dare il traffico, poi riprendiamo sulla mitologia dei decenni passati. Melog, cronache meridiane. Vedi Arlene, noi siamo insieme da 2 settimane, non è che siamo sposati. Ricky, 1 settimana è solo una cotta, ma 2 è già un impegno preciso. Non è colpa mia, io non guardo la bacheca tutti i giorni. Se mi volessi bene lo faresti. Io non ho l'obbligo di guardare la bacheca, anzi da domani non lo farò mai più. Ah, ho capito, vuoi rompere? Un momento, si parlava della bacheca. Da dove esce il discorso che dobbiamo rompere, Arlene? Te lo domando, vuoi che ci lasciamo? Può darsi che ne abbia voglia. Questo vale anche per me. Credo che vorrai indietro il tuo anello. Cioè, tutti questi erano gli anni 50. Giuseppe La Barletta, lei invece è un altro decennio che colloca nelle sue più felici momenti di ricordo. Sì, di ricordo, perché io sono nato nel 60, però posso dire che gli anni 80 qui a Barletta si è respirato un'aria sia lavorativa sia di spensieratezza, perché gli 80 sono stati i famosi anni del mondiale vinto dopo 40 anni. L'edonismo barlettiano famoso. Come? L'edonismo barlettiano, se ne parlava in tutto il mondo. Non so, guarda, c'era anche l'edonismo barlettiano sulla falsa riga degli americani, però posso dire che è stato un decennio meraviglioso qui, almeno nel mio paese, qui nella mia città. Però se posso dire, Fonzi è stato, diciamo, il riflesso di quello che si poteva essere negli anni 50 e 60. Noi forse con lo strascico ce lo siamo portati. Guarda che negli anni 60 ancora la gente andava a scuola vestiti come i loro genitori, con la cravattina al vestito. No. Dove c'era Fonzi? Non esisteva, ma nemmeno, non lo so, sì, forse si cominciano a vedere dopo la metà degli anni 50 in televisione. Noi ci siamo portati lo strascico, forse con le discoteche degli anni 80, con la fine della disco music, con la musica elettronica, però posso dire ho respirato quegli anni, almeno per me, penso per la stragrande maggioranza. Sono gli anni più coatti della mia vita, gli anni 80, anni senza gloria, sì, terribili, anni fatti di niente. Stefano. Beh, io posso dire gli anni 70. Sì, anni 70. Stefano, per lei gli anni 70, ragione. Brutti anni anche quelli. Stefano. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, no, io la mia riflessione era questa. Mi ricordo che questo film, quando è iniziato, era diciamo prettamente improntato sulla famiglia Cunningham. Era tutto svolto inizialmente su di loro, fino a che non è venuto sulla scena questo personaggio Fonzi. E mi ricordo quando dicevamo: oh ragazzi, andiamo via perché sta per cominciare Fonzi, non dicevamo nemmeno Happy Days, dicevamo Fonzi, cioè aveva rubato la scena questo personaggio che poi non aveva niente straordinario, alto 1,60 m, tutta testa. Però le capisce che era difficile identificarsi negli altri che erano una sequela di sfigati. Fonzi era l'unico vincente, l'unico che piaceva a tutti, una sorta di super coatto di paese trasportato nella provincia americana. Giuseppe Sanzon. Sì, aveva l'ufficio nel bagno, aveva delle caratteristiche, delle connotazioni, dava un pugno al jukebox e partiva il jukebox, aveva qualcosa, era stato almeno un po' studiato. Adesso aveva dei super poteri, aveva praticamente. Sì. Certo, ascoltando i doppiaggi senti queste voci stupidine, no, degli altri personaggi, lo stesso Ricky era davvero insopportabile. No, sentendo il doppiaggio adesso ci fa venire i brividi, aveva un retrogusto di accento romanesco, Cunningham. Non ci ho mai fatto caso, ma allora chi se ne accorgeva di queste cose? Luisa, buongiorno. Buongiorno, niente, io sono del 53, per cui ho vissuto pienamente quei decenni favolosi fino appunto agli anni 70 e mi ricordo che non uscivo di casa se non vedevo Fonzi, per me era proprio... Era già bella grandina comunque. Sì, ero già grande, comunque mi dava questa parvenza di aria ossigenata, mi piaceva moltissimo, trasmetteva ancora dei valori che adesso naturalmente non esistono più. Lo sa perché, guardi, poi mi conforterà Sanson, vediamo se lei... Fonzi, lei già lo viveva concretamente nella rilettura che veniva fatta negli anni 70, negli anni 50, perché verso gli anni, fine anni 70 ricominciarono a impomatarsi i capelli, quando si cominciò a entrare nel periodo travoltesco, c'era tutta una citazione del look di quegli anni lì, quindi noi già vivevamo in qualcosa che c'era stato American Graffiti, già vivevamo in qualcosa che assomigliava a quello, quindi sì. I burinelli di paese già si rivestivano con la brillantina perché andava di moda e quindi lei aveva una doppia visione. Giuseppe Sanzon. È bellissimo, poi se tu pensi... Ma tu che vieni da un paese della Puglia ne avrei avuto proprio la prova palese lampante. No, sì, ovviamente io lo vedevo a 8 anni, perché essendo 77 ne rivedevo le repliche della metà degli anni 80 e per la mia vita da elementari era già un pochino, devo dire non per fare lampante, un pochino stucchevole era. Ma tu eri già un piccolo critico cinematografico. Era un nerd, sì, perché ero un piccolo critico, ero assorbito da questo, però sicuramente c'era una citazione. Però se pensi a un americano a Roma, a come avevo bisogno di ricaricaturizzare il mito americano per poterlo assimilare e approssimare a noi, è da lì che riparte tutto. Quindi certo, Fonzi... quando eravamo già passati per Alberto Sordi, faceva l'americano a Roma, figura vedere Fonzi, non ne vediamo più l'aspetto grottesco. Certo. È il modo in cui noi ci approcciamo al mito, smitizzandolo fondamentalmente, perché non crediamo a niente come popolo, sostanzialmente è quella la nostra caratteristica. Questa è la nostra fortuna, che siamo scettici verso tutto, verso tutti. Quindi quello che è il portato epico di un decennio, ma noi ci scivola addosso, lo prendiamo in giro. Susanna. Buongiorno. Quali sono stati i decenni epici secondo lei, i 10 anni epici che lei ha attraversato, mitici, allora, mitologici? Mitologici sicuramente quando ho cominciato a capire com'era un po' la vita. E a cosa corrisponde? Quale epoca? Ma direi, io sono del 54 come lei, dottor Nicoletti. Quindi, ma l'età di Orlando, ha visto quanto è vecchio, brutto, capelli vecchi, come noi, così? No, io non mi paragono ad Orlando. Ma c'è la nostra età. Sì, alla nostra età, però ognuno la porta in modo diverso. Lei quando è cominciato a capire, allora mi spieghi, in che anni? Ma direi verso gli anni 60, anche perché... Così piccola? Ma io, sì, diciamo, ho cominciato dopo il 2000 a capire qualcosa. No, attenzione, è così. Qualcosa, non si arriva mai al momento giusto quando a capire qualcosa. Ma che negli anni 60 faceva le scuole elementari, cosa capiva, esatto, le scuole elementari? Le scuole elementari, beh, cosa capivo? C'erano nelle sue classi manifesti con le bombe, con i bambini, con i moncherini, ancora residuo della guerra, non toccare questa bomba, potresti saltare in aria. No, quello non nella mi mia ricordo. Sì. Quindi noi c'eravamo già lo strascico ancora negli anni 60 della guerra che era finita nel 45, cose che nessuno dice queste. Però ricordo i racconti della mia mamma e dei miei nonni, quello sicuramente. Che l'hanno martoriata, mangia la fettina, perché noi la carne la mangiamo una volta l'anno. Non buttare via il pane, non che peccato. Le cose, si casca per terra, va baciato e rimesso sulla tavola. Esatto, oppure si buttava gli uccellini fuori dalla finestra. Lo so, allora c'erano gli uccellini. Daniele. Sì. Buongiorno, io volevo dire che i miei happy days sono stati gli anni 90, perché sono stati gli anni del mio ingresso in società. Quanti anni aveva negli anni 90? E negli anni 90 avevo dai 16 in poi. Lei pensa che invece il primo decennio non epico? I mitici anni 80 ancora si dice un po', fa un po' ridere. Ma ero troppo piccolo io. I mitici anni 90, quindi... nessuno dice sono mitici gli anni 90, ancora vanno attribuiti di valore mitico. E qual era il senso degli anni 90? Che nessuno l'ha colto ancora, secondo lei? Ma secondo me era intanto che non c'era l'Europa, quindi diciamo che sono mitici ex post, cioè ante Schengen, va bene. Esatto, pensando ad oggi. Quindi quando si andava in vacanza si andava all'estero, bisogna cambiare i soldi. Quando c'erano le 100 lire ancora, quando c'erano le 1000 lire, quando insomma si riusciva a cavarsela con poco, cioè io avevo una paghetta settimanale di 5.000 lire ed ero anche fortunato rispetto ad altri, no? 5.000 lire a settimana le davano? A settimana. Però lei pensi se oggi le desse 2,5 euro a settimana, un ragazzino che ci fa con 2,5 euro? No, ma te li tira dietro secondo me. E poi 5.000 lire non erano poche, perché erano... Uno andava al cinema, ci mangiava la pizza, ci si poteva prendere le sigarette, voglia con 5.000 lire fare. Anche perché c'era ancora la nonna, io passavo poi in seconda battuta dalla nonna e me ne dava altrettanti. Quindi capisci, sono questi ricordi stupendi. E comunque gli anni 90 sono stati, secondo me, gli anni dell'opulenza. Vabbè, lei vede, è importante, vede, riprenderemo questo tema, bisognerà capire come si può attribuire un valore epico a un decennio al di là della letteratura, della riscrittura. Il nostro ascoltatore l'ha detto, sono gli anni prima dell'Europa, prima dell'euro, erano anni per lui fantastici. A domani.